Blu Radio Sera. 21 e 12 minuti in questo istante, ben trovati su Blu Radio Veneto, le nostre solite chiacchiere musicali del martedì sera dalle 21 alle 22.30. In regia Sergio Bortolami, dall'altra parte del vetro Maurizio Calzavara. Maurizio, questa sera siamo con Claudio Lolli e io più tardi, ma prima con Claudio Lolli. Buonasera Claudio Lolli. Ciao, buonasera. Come va? Abbastanza bene. Bene, bene, benissimo. Posso dirti una cosa? Io i primi tuoi 6 dischi li ho tutti in vinile. All'epoca li avevo comprati tutto in vinile. È un grande onore per me intervistarti, parlare della tua musica, di tuoi tanti, del tuo percorso musicale. Partendo all'inizio, aspettando Godot del 72, ma com'è il discorso delle osterie delle dame? Tu hai cominciato a suonare in quei locali storici di Bologna, suonando, facevo un po' di tecnica, un po' di finger picking, mi pare, è così? Ma sì, certamente, ma sai, all'epoca succedeva così, insomma, c'erano questi locali in cui ci si poteva esibire, ovviamente gratuitamente, però anche senza essere convocati, insomma. Esattamente, cioè, dimmi. Quindi io sì, ci andavo, la sera ci andavo, sabato sera ci andavo, mezzanotte si poteva suonare, io suonavo. Esattamente, suona chitarra e voce, e poi tra i tanti personaggi che hai conosciuto agli Osterie delle Dame hai conosciuto anche Francesco Guccini. Vabbè, per forza, era lui che apriva la porta. Ah, perfetto, era lui che apriva la porta. Stava le bottiglie di vino, quindi era impossibile, lo conoscevo già, comunque. Sì, era uno di quelli che si occupavano di questa osteria, insomma, di questo luogo, che non era un'osteria, insomma, non so come si chiamerebbe oggi. No, lo si suonava e si beveva. Si discuteva, si parlava, eccetera. Certo, certamente, assolutamente. Era un locale, una cantina vecchia con gli archi avvolta, sì, un posto molto carino. Molto bello. Praticamente là hai cominciato a inventare, a creare i tuoi primi pezzi, o sbaglio, Claudio? No, beh, non io propriamente lo facevo, là. Lo facevo già prima, li facevo sentire, ecco. Ecco, esattamente. Li scrivevo a casa, nella mia stanzetta da studente liceale, insomma. Esattamente. E poi è stato proprio quindi una cosa molto importante, felice di trovare Guccini, e lui ti ha introdotto al primo contratto discografico, non è così Claudio? Ma sì, beh, non è neanche che mi ha introdotto. Uno di questi sabato sera in cui io sono andato lì a suonare, ho fatto 4-5 pezzi, era appena uscito il suo disco Radici, che sì, era già un grande successo commerciale, e c'erano i discografici dell'EMI che mi hanno fatto firmare un contratto subito prima di uscire ancora, insomma, di uscire dal locale. Ah, direttamente là, sul tavolo, sì, del, sì, locale. Sì, sì, firma, facciamo qualcosa. Una cosa bellissima. Sì, molto fortunato, sono stato molto fortunato, devo dire, non ho bussato mai a nessuna porta, mi hanno sempre chiamato loro. Dobbiamo dire anche che grazie anche un tantà mediatico da parte di Per Voi Giovani, quindi Carlo Massarini, anche lui ti ha dato una spinta per far conoscere Aspettando Godot, o sbaglio? Sì, sì, sì, ma era quell'altro, sai, non mi ricordo come si chiamava, c'era quell'altro che è venuto. Ah, no, c'era Raffaele Cascone, Mario Luzzatto Fegic, Paolo Giaccio, quella gente. Facevano parte tutti di Per Voi Giovani, comunque, praticamente. Sì, Per Voi Giovani, c'era uno che veniva con il registratore, è stato qua qualche giorno, eccetera. Uno che poi ha prodotto un disco di Vecchione, adesso ho capito. Il nome non me lo ricordo, però. Ho capito. Quindi praticamente è venuto qua con il registratore, ha sentito i tuoi pezzi e chiaramente poi i pezzi. Beh, ha sentito un po' i pezzi di tutti i musicisti bolognesi di quell'epoca, insomma. Chi suonava la, ti ricordi, oltre a te, nell'Osteria delle Dame all'epoca? Beh, Francesco suonava ancora, perché insomma era già famoso, ma non così tanto, e quindi si faceva anche le sue seratine lì nel locale. E poi insomma tanti altri, diciamo che non tutti hanno avuto un esito, diciamo così, nazionale, però tutti ragazzi molto bravi, molto simpatici, insomma. Certamente. Una cosa che non sapevo, il tuo primo album è stato prodotto da un ex Marcello Sferial, Marcello Minerbi, sì, è così? Sì, sì, sì, quello di sei diventata nera, forse gli ascoltatori si lo ricordano. Certo, ma io non lo sapevo. Comunque è stato bravo, ha fatto praticamente gli arrangiamenti e io ho fatto le mie tracce da solo, voce chitarra, con un collarino di polistirolo per separare le tracce della voce da quella della chitarra. Poi ha fatto gli arrangiamenti e comunque hanno chiamato a fare il basso alla batteria Ella e Ares. E questo, come dire, l'abbiamo capito dopo, quando ho incontrato Ella e Ares. Ci siamo resi conto che loro hanno suonato questo primo disco senza conoscermi. Grandissimi professionisti in ogni caso. Beh, hai voglia. Certo, chiaramente. Certamente. È una cosa simpatica. Il primo disco era, cioè, 5.000 lire in copertina, mi ricordo, lo guardo avanti. Certo. È una tua idea oppure no, l'idea? No, è stata un'idea loro. Che, vabbè, io non so, avevo un ragazzino, 20 anni. Ma non mi hanno anche chiesto un parere, comunque va bene così. Vabbè, lo stesso, insomma, chiaramente. Vent'anni. Quindi incidere per la EMI era una grandissima opportunità, Claudio, decisamente. Ma sì, è stato un colpo di fortuna, cioè non ho fatto nulla per averlo. E quindi, cioè, non è che vai a rompere i coglioni sulla copertina, insomma, non no, era molto pop e andava bene così, insomma. Tra l'altro, appunto, moltissimi come te mi chiedono di questa copertina, cioè, le altre, diciamo così, 19 erano molto più belle, però si ricordano quasi tutti di questa. Esatto, sicuramente. Evidentemente avevano ragione loro, insomma. Sì, effettivamente. Com'è stato, Claudio, lavorare con la EMI per un artista che, insomma, non era propriamente commerciale? Ti hanno dato dei paletti oppure? No, questo assolutamente no. Devo dire che cioè, è come la polemica che oggi hanno gli autori di Mondadori e Einaudi con Berlusconi, insomma, no, loro non mi hanno mai messo, come dire, nessun divieto, non mi hanno mai imposto nulla, eccetera. Insomma, le censure eventualmente erano censure economiche, di mercato, cioè mi davano pochi soldi per i dischi, cioè, però me l'hanno sempre fatti fare e non ha mai detto una parola su nulla, capito, su un testo, su una canzone, ci mancherebbe altro, cioè. Quindi da questo punto di vista molto corretti, ma sai, l'industria è corretta da questo punto di vista, insomma, la censura arriva da altre parti, insomma, è una censura. Nel momento della messa in onda, magari. Esatto. Cominciamo con la title track da questo disco meraviglioso, da Aspettando Godot, Claudio Lolli. Allora. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Vivo tutti i miei giorni aspettando Godot. Dormo tutte le notti aspettando Godot. Ho passato la vita a aspettare Godot. Nacqui un giorno di marzo o d'aprile, non so. Mia madre che mi allatta è un ricordo che ho, ma credo che già in quel giorno però, invece di poppare, io aspettassi Godot. Nei prati verdi della mia infanzia, nei luoghi azzurri di cieli aquiloni, nei giorni sereni che non rivedrò, io stavo già aspettando Godot. L'adolescenza mi strappò di là e mi portò ad un tavolo grigio, dove fra tanti libri però invece di leggere aspettavo Godot. Giorni e giorni a quei tavolini, gli amici e le donne vedevo vicini. Io mi mangiavo le mani però non mi muovevo e aspettavo Godot. Ma se i sensi comandano, l'uomo obbedisce. Così sposai la prima che incontrai, ma anche la notte di nozze però non feci nulla aspettando Godot. Poi lei mi costrinse ed un figlio arrivò, piccolo e tondo urlava ogni sera, ma invece di farlo giocare un po', io uscivo fuori ad aspettare Godot. E dopo questo un altro arrivò, e dopo il secondo un altro però. Per essere del tutto sincero dirò, gli avrei preferito arrivasse Godot. Sono invecchiato aspettando Godot, ho sepolto mio padre aspettando Godot, ho cresciuto i miei figli aspettando Godot. Sono andato in pensione 10 anni fa ed ho perso la moglie acquistando in età. I miei figli sono grandi e lontani però io sto ancora aspettando Godot. Questa sera sono un vecchio di 70 anni, solo e malato in mezzo a una strada. Dopo tanta vita più pazienza non ho, non posso più aspettare Godot. Ma questa strada mi porta fortuna, c'è un pozzo laggiù che specchia la luna, è buio profondo e mi ci butterò senza aspettare che arrivi Godot. In pochi passi ci sono davanti, ho il viso sudato e le mani tremanti. È la prima volta che sto per agire senza aspettare che arrivi Godot. Ma l'abitudine di tutta una vita ha fatto sì che ancora una volta per un momento io mi sia girato a vedere se per caso Godot era arrivato. La morte mi ha preso le mani e la vita, l'oblio mi ha coperto di luce infinita e ho capito che non si può coprirsi le spalle aspettando Godot. Non ho mai agito aspettando Godot, per tutti i miei giorni aspettando Godot. E ho incominciato a vivere forte, proprio andando incontro alla morte. Ho cominciato a vivere forte, proprio andando incontro alla morte. Blu Radio, il Veneto come non l'hai mai sentito. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera del martedì, sempre con ospiti molto interessanti, questa sera con Claudio Lolli. Maurizio. Sì, nel libretto è ribadito, che ho qua davanti, direzione e consulenza musicale di Marcello Minerbi, proprio nel libretto allegato al disco. cioè, ho il CD perché il disco, il vinile l'ho lasciato a casa. Una cosa volevo dirti, Claudio, all'epoca io ho qualche anno meno di te, ma mica tanti di meno, io uno, e un mio amico abbiamo tentato mille volte di fare con la chitarra aspettando Godot e Michel, ma è difficilissimo secondo ma me. Ora eravamo dei imbranati totali. Sono quattro accordi. Eppure non c'era niente da fare. Eravamo degli imbranati totali. Abbiamo tentato un sacco di volte. È molto semplice, insomma. Disco bellissimo, chiaramente. Un altro pezzo che trovo meraviglioso, un classico, secondo me, di classici, è Michel, che tu hai dedicato a un amico francese. Sì, certamente, certamente. Era un ragazzo che era con me alle scuole medie, era francese, Michel Dubois, e sai il fascino che possono avere, no? Vabbè, oggi li ammazzano, insomma, ma invece per me quelli leggermente diversi erano persone affascinanti, fascinose. Lui era poi bellissimo, intelligentissimo, molto simpatico, e niente, ha avuto questa storia molto triste, abbiamo avuto questa storia affettiva molto interessante che io ho cercato di raccontare, insomma. Ricordo anche una volta che, insomma, ci fu una rivista che recensì questo disco e questa canzone, mi disse: finalmente abbiamo un cantore degli omosessuali in Italia. Insomma, non era così, era un amore adolescenziale, quegli affetti che hai a 12-13 anni, insomma, e quel sesso ancora non esiste, insomma. Ok, la sentiamo, è bellissima e merita di essere ascoltata tutta. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Ricordi, Michel, dei nostri pantaloni corti, delle tue gambe lunghe, magre e forti, e della rabbia che mi davano correndo tutti i giorni un po' più svelte delle mie. Ti ricordi, Michel, dei nostri soldatini morti, nella difesa eroica dei bastioni, e seppelliti in una siepe con onori militari inventati lì per lì. Ti ricordi, Michel, del banco nero in terza fila, che ascoltò tutte le risate di due bambini che vivevano in un sogno che non si ripeterà. Ti ricordi, Michel? Ti ricordi, Michel? Ti ricordi, Michel? Ti ricordi, Michel? Ti ricordi, Michel, che a me piaceva Garibaldi, ma tu dicevi che era un buffone e che senz'altro non poteva sostenere il confronto con il tuo Napoleone. Ti ricordi, Michel, di come ti prendevo in giro per l'R moscia che ti era rimasta, solo ricordo della Francia e della tua prima casa, dei tuoi amici di lassù. Ti ricordi, Michel, di come era esclusiva la tenerezza che ci univa, accompagnò la nostra infanzia fino ai giorni della nuova realtà. Ti ricordi, Michel? Ti ricordi, Michel? Ti ricordi, Michel? Ti ricordi, Michel? Ti ricordi, Michel, di come a me dispiaceva quando parlavi sempre di ragazze e delle voglie che avevi con due occhi un po' sottili che non conoscevo più. ricordi, mi scegli quando i miei capelli corti ti davano fastidio e dicevi che se non la piantavo di fare il bambino tu con me non ci saresti uscito più. Ti ricordi, Michel, quel giorno che facemmo a pugni tornando a casa dalla scuola, con la cartella appoggiata a una colonna a due passi dal palto. Ti ricordi, Michel? Ti ricordi, Michel? Ti ricordi, Michel? Ti ricordi, Michel? Ricordi, Michel, il giorno che morì tua madre, che tu piangevi tanto, che anche il cane che ti voleva così bene non aveva il coraggio di avvicinarsi un po'. Ti ricordi, Michel, che tristi erano quei giorni, io non sapevo proprio cosa dirti e che confusione avevo in testa e che stupore sul tuo viso e che voglia di partire. Ti ricordi, Michel, quei due saluti alla stazione e i lacrimoni venir giù quando la macchina comincia a far pressione, tu dovesti salir su. Ti ricordi, Michel, che fretta che avevano tutti di far partire la vettura, mentre lento il tuo vagone se ne andava, ritornava la paura. Ti ricordi, Michel? Ti ricordi, Michel? Ti ricordi, Michel? Ti ricordi, Michel? Blu Radio. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Ancora Blu Radio Sera, siamo insieme a Claudio Lolli e linea subito a Maurizio. Maurizio. Claudio, da questo disco D'Aspettando Godot in poi ci sono tre punti cardini, secondo me, della tua impostazione musicale. Sicuramente un impegno politico, una certa critica verso la famiglia e anche un disagio del vivere. Ah beh, sì, assolutamente, ma sai, sono tre punti che si possono tranquillamente mettere insieme, non c'è mica nessun problema. Sì, decisamente, sì. Da questo ci sono stati altri sviluppi, però i punti focali sono questi qua. E questo era un disco abbastanza schematico, cioè abbastanza con pochi strumenti, volutamente così, scheletrico, tra virgolette, non so se sei d'accordo. Ma sì, dal punto di vista musicale, diciamo così, molto essenziale. Sì. Diciamo che, insomma, scheletrico è una parola un po'... Un po' forte, un po' forte, diciamo essenziale. Essenziale forse lascia un po' di spazio in più. E questo flauto meraviglioso che si sentiva, non sono scritti i musicisti, prima ne hai citato uno, però il flauto chi lo suonava? No, questo non lo so, quelli erano dei turnisti. Ma ho capito. Chiamati da Marcello, di cui veramente non so il nome, insomma. Ah, ok, sono dei turnisti che collaboravano. Sono quelli che, insomma, vengono chiamati nelle sessioni di registrazione e eseguono delle parti, insomma. Ho capito. Non necessariamente hanno un ruolo creativo, eseguono, insomma. Bene, benissimo, ma eseguono. Che porte ti ha aperto Aspettando Godot 1972? Ti ha fatto conoscere abbastanza, diciamo, cosa dici? Ma sì, cioè, contrariamente a tutte le ipotesi, è stato recensito molto bene, ne ha avuto delle vendite accettabili, insomma è diventato un disco di culto. Esattamente. Poi una cosa molto positiva, i dischi di, almeno i primi quattro, sono stati ristampati in linea economica, però Canzone di rabbia non l'ho mai trovato, quello no. Ma guarda, io credo che invece sia stato ristampato anche quello. Sì, anche quello forse sia stato sfortunato o fortunato. Perché no? Perché sfortunato, assolutamente no. Io ce l'avevo in vinile, chiaramente. Nel 72, l'anno dopo, pardon, nel 73, scusa, nell'anno dopo, Andrea Carpi e Piero Guccini, cioè il fratello di Francesco, ti danno una mano per Un uomo in crisi, un altro bel disco, che, dove c'è la meravigliosa, secondo me, Io ti racconto. C'è un piccolo collegamento, uno sviluppo da Aspettando Godot, è una cosa che va avanti, uno sviluppo maggiore? No, guarda, lì è stato molto strano, perché io non ho mai pensato di fare, non avrei mai pensato, diciamo così, insieme alle condizioni del passato, di fare questa carriera. Quindi mi hanno fatto fare questo disco, ero molto contento e buono. E poi invece mi hanno telefonato dicendo ma andiamo avanti, facciamo un altro. E allora io ho tirato fuori delle canzoni dal cassetto, ne avevo centinaia, insomma, e ho selezionato qualche cosa e poi siamo andati lì a registrare, insomma. Quindi diciamo che non è un forse è un completamento, poteva essere un completamento, le cose che no, rimaste fuori dal primo disco sono entrate nel secondo, insomma. Quindi poteva essere un doppio album, se o no? Avrebbe potuto esserlo, chiaramente. Quindi è uscito un anno dopo, nel 73, ci sono delle canzoni molto belle, ripeto, Io ti racconto, forse la canzone che rimane più in testa, a mio personalmente. Sì, diciamo che quella da un certo punto di vista più semplice dal punto di vista armonico e anche di testo, certo, sicuramente è quella più popolare. È quella più popolare, esatto. Adesso la sentiamo. Io ti racconto, Claudio Loli, da Un uomo in crisi, 1973. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Ti racconto lo squallore di una vita vissuta ore, di gente che non sa più far l'amore. Ti dico la malinconia di vivere in periferia del tempo grigio che ci porta via. Io ti racconto passato, il mio presente, anche se a te lo so non importa niente. Io ti racconto settimane fatte di angosce sovrumane, vita e tormenti di persone strane. Domeniche feroci passate ad ascoltare le voci di amici reclutati in pizzeria. Io ti racconto tanta gente che vive e non capisce niente, alla ricerca di un po' d'allegria. Ti racconto il carnevale, la festa che finisce male, le falsità di una città industriale. Io ti racconto il sogno strano di inseguire con la mano un orizzonte sempre più lontano. Io ti racconto cerca di una compagnia. Ti dico la disperazione di chi non trova l'occasione per consumare un giorno da leone di chi trascina la sua vita in una mediocrità infinita con quattro soldi stretti tra le dita. Io ti racconto la pazzia che si compra in chiesa o in drogheria, un po' di vino, un po' di religione. Ma tu che ascolti una canzone, lo sai che cos'è una prigione, lo sai a che cosa serve una stazione, lo sai che cosa è una guerra e quante ce ne sono in terra, a cosa può servire una chitarra. Lo sai che siamo tutti morti e non ce ne siamo neanche accorti e continuiamo a dire così sia. Lo sai che siamo tutti morti e non ce ne siamo neanche accorti e continuiamo a dire così sia. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. 21:43 minuti, sempre Blu Radio Sera, nella programmazione serale appunto di Blu Radio Veneto. Questa sera insieme a Claudio Lolli, più tardi insieme a Irio, ma intanto appunto abbiamo Claudio al telefono. Maurizio. Claudio, Saggio diceva che belle queste chitarre, ma le suonava che bello l'arrangiamento, i testi bellissimi, sì, ma anche bello l'arrangiamento chitarristico, le suonava Stefan Crossman la chitarra, quindi un musicista straordinario. C'era l'americano. L'americano, esatto. C'era l'americano, certamente. Bello, bellissimo. Da questo disco c'è una canzone molto forte, ma molto importante, Morire di leva, Claudio. Che parla dei suicidi nelle caserme all'epoca. Questa è una cosa un po' dolorosa che tu mi chiedi, perché purtroppo racconta una realtà. Nel senso che un mio amico ha avuto questo esito, ha scelto questa strada, era un siciliano. Una caserma vicino a Udine e insomma ha scelto di esitare in questo modo, insomma. Mm-hmm. E quindi mi sono sentito quasi in dovere di dedicargli questo pezzo e di raccontare la sua storia, una storia che probabilmente era comune poi a molti altri, insomma. Ricordiamo, questo è il disco del 1973, quindi all'epoca sì siamo nel 73, insomma. Canzone poverissima, francescana, e anche per rispetto, insomma, perché non doveva essere un pezzo pop. Questa storia delle chitarre ad accompagnarla e qualche fisarmonica lontana e malinconica, insomma. Ok, adesso la sentiamo e poi concludiamo la prima parte dell'intervista, Claudio, con te, poi faremo una seconda puntata, qui poi ci sarà da parlare di canzoni di rabbia, ci sarà da parlare, visto anche degli Zingari Felici, di tutti gli altri tuoi meravigliosi dischi, ma terminiamo la prima puntata, chiaramente un prossimo martedì ci metteremo d'accordo e faremo una seconda puntata. Intanto sentiamo questo pezzo molto molto significativo. Va bene. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Questa è la storia di un povero soldato che in una notte d'estate si è ammazzato. Stringersi al collo una cinghia di cuoio non si fa in tempo neanche a pensare, muoio. Non si fa in tempo neanche a pensare, muoio. Solita storia, solita la canzone, solita vita, solita situazione. Soliti accordi, soliti anche i versi, solo i tuoi occhi, amico, quelli erano diversi. Solo i tuoi occhi, amico, quelli erano diversi. Porca Eva, proprio te è toccato morire di leva. Diceva sempre, io sono sfortunato, sia maledetto il giorno che sono nato, con la scalogna incredibile che ho. Chissà se a morire ci riuscirò. Chissà se a morire ci riuscirò. Diceva sempre, io starei bene solo, perso tra i ghiacci immensi dell'Alaska. Di questa vita non me ne importa niente, lo hanno trovato con le mani in tasca. Lo hanno trovato con le mani in tasca. Porca Eva, proprio a te è toccato morire di leva. Diceva sempre, quando mi sento male, mi tira su un giro in automobile, però lo sento che il giorno si avvicina, che finirò per sempre la mia benzina, che finirò sempre la mia benzina. Povero corpo, floscio e senza vita, lo hanno trovato due che erano ubriachi. Uno a quell'altro ha detto, non ci credi, quel lampadario mi sembrano due piedi, quel lampadario mi sembrano due piedi. Lunga, lunghissima, morire di leva con la voce di Claudio Lolli. Maurizio. Claudio, grazie per questa prima puntata. Grazie a voi. Grazie, è stato molto interessante, era molto tempo, erano molti anni che avevamo questa idea, finalmente questa idea siamo riusciti a portarla avanti. Benissimo, benissimo. Ci mettiamo d'accordo per una prossima puntata, quindi nella prossima puntata parleremo di canzoni di rabbia, ho visto anche degli Zingari di Felice, della seconda parte della tua carriera. Va benissimo, io vi ringrazio molto e ringrazio gli ascoltatori per la loro pazienza eventuale. Claudio, com'è andato il primo giorno di scuola? Benissimo, come vuoi che sia andato. Sì, beh, effettivamente, dai, su via. Alla prossima. Alla prossima, grazie Claudio. Grazie. Grazie a voi. Grazie mille. Blu Radio Veneto, è come non l'hai mai sentito.